Acab raccontò a Jezabele tutto ciò che Elia aveva fatto e come aveva ucciso con la spada tutti i profeti. Allora Jezabele inviò ad Elia un messaggero perché gli dicesse: «Che gli dèi mi facciano questo male e aggiungano ancora quest'altro, se domani a quest'ora non avrò fatto della tua vita come della vita di ognuno di essi». Elia ebbe paura, si alzò e se ne andò per mettersi in salvo. Arrivò a Bersabea, che si trova in Giuda, e vi lasciò il suo servo. Si inoltrò quindi nel deserto, camminando per tutto un giorno, e andò a sedersi sotto una ginestra. Qui s'augurò di morire, dicendo: «Ora basta, o Signore, prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei antenati». Poi si sdraiò e s'addormentò sotto quella ginestra. Ma un angelo lo toccò e gli disse: «Levati e mangia». Egli guardò, ed ecco che vicino al capo v'era una focaccia cotta su pietre infuocate e una brocca d'acqua. Mangiò e bevve, poi tornò a sdraiarsi. L'angelo del Signore venne una seconda volta, lo toccò e gli disse: «Levati e mangia, altrimenti troppo lungo sarà per te il cammino». Di nuovo si levò, mangiò e bevve. Poi, sostenuto da quel cibo, camminò per 40 giorni e 40 notti fino al monte di Dio, l'Oreb. Qui giunto, entrò nella caverna e vi passò la notte, ed ecco che la parola del Signore gli fu rivolta in questi termini: «Che fai qui, Elia?» Egli rispose: «Ardo di tanto zelo per il Signore, Dio degli eserciti, perché i figli di Israele hanno abbandonato la tua alleanza, hanno distrutto i tuoi altari ed ucciso di spada i tuoi profeti. Sono rimasto io solo, eppure essi cercano di togliermi la vita». Di rimando sentì dirsi: «Esci e sta sul monte davanti al Signore». Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un vento grande e gagliardo, tale da scuotere le montagne e spaccare le pietre. Ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento ci fu un terremoto. Ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto ci fu un fuoco. Ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco ci fu il sussurro di una brezza leggera. Non appena sentì questo, Elia si coprì la faccia con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Ed ecco una voce che gli diceva: «Che fai qui, Elia?» Egli rispose: «Ardo di tanto zelo per il Signore Dio degli eserciti, perché i figli di Israele hanno abbandonato la tua alleanza, hanno distrutto i tuoi altari ed ucciso di spada i tuoi profeti. Sono rimasto io solo, eppure essi cercano di togliermi la vita». Il Signore gli replicò: «Va, riprendi il tuo cammino verso il deserto di Damasco. Andrai ad ungere Kazael come re di Aram, poi ungerai Jehu, figlio di Nimsi, come re di Israele. Infine ungerai Eliseo, figlio di Safat, da Abel-Mecola come profeta al tuo posto. Chiunque sfuggirà alla spada di Kazael sarà ucciso da Jehu, e chiunque sfuggirà alla spada di Jehu sarà ucciso da Eliseo. Io poi mi serberò in Israele 7.000 uomini, tutte le ginocchia che non si sono piegate davanti a Baal e tutte le bocche che non lo hanno baciato». Elia partì di là e trovò Eliseo, figlio di Safat, mentre arava con 12 coppie di buoi davanti a sé, ed egli si trovava con la 12ª coppia. Gli passò accanto e gli gettò il suo mantello. Eliseo abbandonò i buoi e corse dietro ad Elia, dicendo: «Permettimi di abbracciare mio padre e mia madre, e poi ti seguirò». Gli rispose: «Va e torna, perché sai bene che cosa ti ho fatto». Tornato indietro, prese una coppia di buoi, li uccise, li fece cuocere sui loro attrezzi e li diede alla gente che ne mangiò. Poi si levò, seguì Elia e si pose al suo servizio.